Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Terrible moments like these, it is customary for leaders, politicians and others to condemn the perpetrators and declare that the terrorists will not win. Si è trattato di un attacco particolarmente odioso e orribile perché ha colpito in modo particolare ragazzi e ragazze, adolescenti che con le loro famiglie erano andati per un concerto. We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. So many young, beautiful, innocent people living and enjoying their lives murdered by evil losers in life. E quindi al di là del kamikaze classico che si fa esplodere, quello col camion, quello col coltello, non c'è dubbio. L'omicidio del povero Biagi richiedeva come lo fermi, come ti difendi. Però sono spostati fin dall'origine, non è che al-Baghdadi, il capo dello Stato Islamico, è uno normale, insomma, no? Sì. Quelli sono tutti spostati. Vabbè, non so come si sia infilato Gasparri tra Theresa May, Trump, Gentiloni, vabbè, c'è anche Gasparri, certo. Signori, sono le 6:33 minuti. Oh, forse bisognerebbe dire una verità, perché nelle dichiarazioni ovviamente molto costernate, molto deluse, molto tristi, molto empatiche anche di tutti i leader mondiali, c'è questa frase che viene ripetuta sempre: non prevarranno, i terroristi non vinceranno, Trump si è spinto oltre, li sradicheremo, li elimineremo dal mondo. No, no, purtroppo bisognerebbe iniziare a dire la verità. No, no, no, ci saranno sempre delle persone che ci odiano, che vorranno ucciderci, che vorranno colpirci, è la triste verità. Cioè, non è che bisogna edulcorare e dire no, purtroppo, purtroppo ci sono. Ieri guardavo la TV, il telegiornale, con i miei due figli e gli ho detto: mi spiace, cioè, ho cercato di spiegare le cose, ho detto: erediterete un mondo da questo punto di vista peggiore. È perché non siamo stati in grado di darvi un mondo migliore, cioè ci saranno purtroppo queste cose. È inutile inventare che non è vero, le favole, le fiabe. No, non è vero che li sradicheremo. Saranno sempre meno, si spera, cercheremo di limitare i danni. Ma è un mondo così. Evidentemente i buoi sono scappati dalla stalla e niente, purtroppo dobbiamo abituarci al fatto che colpiranno ancora. Poi se volete raccontarvi delle favole, invece raccontatevi le favole. Signori, alle 6:34 minuti, a Triuggio ci sono 16 gradi, mentre a Bologna 19 gradi, è arrivato un gran caldo, anzi se mi accendete l'aria condizionata qui che è spenta, sto già... A Perth, Chiara, 20 gradi, soleggiato, Grande Chiara, sempre là in Australia. Sentite qua, ci stanno ascoltando anche a Riyadh. Marco da Riyadh, Arabia Saudita, 32 gradi, sole e poche nuvole. Marco, spiega due cose magari lì in Arabia Saudita. Per l'appunto, sì, nostro testimone, nostra sentinella in Arabia Saudita. Perugia, 18 gradi, assenza di vento, cielo velato, evviva. E anche un velo di tristezza per ieri, certo, Luca, grazie. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 19 gradi, salutiamo Maurizio. A Merate invece 19 gradi e mezzo. Daniele, a Pescara 14 gradi. Grazie Luciano. Paolina, Paolina. Eccola qua. Paolina, la nostra Paolina Saluzzi. Ma buongiorno. La nostra Paolina spiritosa. Lino. Spiritosa. Paolina spiritosa. Lino, caro, questo ce lo siamo già detto ieri, ma credo che insomma corrisponda un po' allo stato d'animo di tutti noi, no? Quando vediamo le immagini dei, mannaggia, dei bambini colpiti in guerra. Sì, sì. Proviamo, perché è inutile dire, c'è gente che se ne frega, ma c'è gente che si sente giustamente a disagio quando, quando, o dico disagio mettendolo ovviamente tra virgolette e risottolineandolo. E oggi è una giornata, anzi oggi è dall'altra sera che è una giornata così, no? Sì, eh sì. Perché sottolinei e senti dentro di te e racconti, perché questo è il nostro lavoro, di base la grandissima vigliaccheria, non perché colpire quarantenni o cinquantenni sia un atto non vile, ma dietro alla faccia di un bambino, di una bambina di 8 anni, di un ragazzino, vedi proprio l'impossibilità a difendersi anche mentalmente da quello, da quello, sì, che la più, sta la più piccola accertata, no? Dei morti è Safi Rose, proprio 8 anni. È come chi ha lasciato la valigia alla stazione di Bologna quel 2 agosto e ha visto che c'era una bambina di 4 anni che correva intorno e giocava. È proprio fare il conto con la mostruosità, anche se devo dirti, do perfettamente ragione a Donald Trump, che ieri ha detto una cosa molto giusta, ha detto non li chiamo mostri, li chiamo losers, li chiamo perdenti. E per quanto quella frase oggi chiaramente necessiti di aiuto, perché prima di chiamarli perdenti ne costerà, sì. Trump ha detto bene, ha detto molto bene. No, sono mostri perdenti, ma certo, troppo. È chiaro, è chiaro che sono perdenti. Però il problema è che la situazione è un mondo, ma l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni, intanto insieme l'abbiamo a Paolo Saluzzi. È chiaro. Cioè, nel senso, prodotto noi attraverso. O comunque è il mondo che negli anni si è creato. Adesso non è che possiamo stare ad analizzare i milioni di perché e di per come. Non è questo il ruolo, ci mancherebbe altro, io non mi metto in questo ruolo, però ecco, è più difficile. A maggior ragione chapeau a te, a tutti i tuoi collaboratori, e quindi siamo qui e commentiamo la nostra mattinata insieme a Paolo Saluzzi, ovviamente di Sky c'è il nostro Luca Dini, il nostro super mega dir che è in giro anche oggi. Paola, non svegliamo nulla, ma è in giro, non lo so se ce lo vuole dire, è in giro. Ve lo posso dire. Sulla Salina. A però... Salina. Ah. Sì. Lo dice pure. Vuoi dirci? Per lavoro. per lavoro a Salina, per la grande per lavoro a Salina. Capito? La raccolta perché, dei capperi. Perché Luca Dini non chiama mai gli amici e dice: "Senti, guarda, ho bisogno di chi mi aiuti a portare, Sta facendo la raccolta di capperi però, è la stagione della raccolta dei capperi, si sta un attimo, insomma, così. Allora, insieme a Luca Dini, caro Luca, dai, apriamo il Parlamento qui. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli c'è purtroppo così, anche il rischio, e noi lo capiamo benissimo, chi fa informazione, Luca Dini, Paola Saluzzi, tutti i giorni alle 10 su Sky, di dire anche sempre, Luca, le stesse cose, perché come un cliché si ripetono questi attentati, in questo caso a Manchester, ma voglio dire, si colpisce ovunque, si è colpito ovunque in questi anni. Sì, è vero. Però quello che dicevi tu, a parte che non voglio vantarmi di averlo fatto, ma perdente, credo di averlo scritto io ieri mattina. Però sono perdenti, obiettivamente. Cioè, quando tu dici ci saranno sempre, è vero, ma non prevarranno. No, questo non hanno no. mai prevalso. Questo no, questo... E, E poi l'altra cosa, non sono d'accordo con te su una cosa sola, non è vero che lasciamo ai nostri figli un mondo peggiore di quello che abbiamo ereditato noi, perché anch'io ho pensato a Bologna, comunque avevo 15 anni quando c'era Bologna e quando, certo, quando mio papà aveva 15 anni i bambini morivano sotto le bombe, quindi non... Cioè... Ah, io dico da questo punto di vista, cioè in questo specifico in questa specifica problematica che abbiamo, cioè voglio dire, ci sono città europee in cui negli aeroporti negli ultimi anni, a Bruxelles, sì, a Manchester, Londra, vero... Parigi, ci ammazzano. Perché... Però è anche vero che un terrorismo così è fatto totalmente di emulazione, perché è chiaro che non sono atti, diciamo, controllati dal Baghdadi o da una rete centrale, ed essendo atti di emulazione seguiranno un ciclo, sì, onestamente, prima o poi finiranno, non completamente, ma sì, e questo, sarà questo un punto in cui non succederanno più con questa intensità e con questa frequenza. Io lo penso, io lo spero, e ovviamente, però insomma, ecco, abituare le persone, perché ieri giravano giravano come si possono fermare queste persone con estremi controlli, con la prevenzione, con i servizi segreti. Ne sono stati anche fermati tanti, esatto, ma sperare che alcune persone, alcune fortunatamente sono molto poche, rinsaviscano. No, purtroppo crescono con l'idea a un certo, o credono a un certo punto della loro vita che devono uccidere. E sai cosa, Alessandro? La denuncia dei gruppi che vivono accanto a loro. In questo si deve chiedere a chi vive e viene dall'Afghanistan, viene, oggi leggevo ovviamente tra i tanti articoli, chi è andato a chiedere, noi veniamo dall'Afghanistan, e gli chiudono la porta in faccia, giustamente, perché in questo momento tutti si chiudono poi all'interno di quelle... È chiaro, nessuno, come dire, vuole... Alveari orrendi che sono le periferie, che hanno prodotto il male sempre, ovunque, e quindi continuano a farlo, perché evidentemente non sono curate nel modo in cui dovrebbero, però nella denuncia di chi, non credendo nel messaggio, perché non mi venire a dire che vai a toccare gli infedeli, non credendo nel messaggio in cui che arma la mano di questi vigliacchi, sì, denunci. Certo. Ecco, denunci prima, cosa che ha perfettamente ragione il direttore, è già successa, perché noi oggi guardiamo come sempre all'orrore di quello che abbiamo davanti, ma quante cose sono state evitate, non lo diciamo, o se volete troviamo normale che siano state evitate, perché quello è il progetto della sicurezza, no? Evitare che accadano. Allora, lavorare anche su questo, nella denuncia di chi, vivendo accanto a questi, che comunque un'idea la fanno trapelare, denunci. E questo purtroppo è un po' il problema, le connivenze. Adesso si è scoperto che questo ragazzo, che tra l'altro diciamolo chiaramente, forte e chiaro, Luca, è nato e cresciuto a Manchester, è lì. Sì. È nato e cresciuto lì, certo, voglio dire, è libico di origine, però questo per dire, sempre blocchiamo le migrazioni, eccetera. È un altro problema questo, se volete, da affrontare, ma la verità è che crescono e si nutrono degli stessi ideali con cui cresciamo i nostri figli, poi a un certo punto della loro vita, evidentemente non funziona più. C'è anche sicuramente un problema di percezione di diversità, di arrivare a un certo punto in cui capisci di non, o pensi di non essere accettato, di essere diverso. Insomma, esatto. Perché è vero che sei nato lì, ma sei comunque diverso, bisogna vedere se questa diversità riesci a usarla orgogliosamente per farti strada nella vita in modo normale, come succede nel 99,9999% certo, dei casi, oppure se diventa una molla. Tra l'altro, Luca, c'è da dire, ora c'è anche la grande altra tematica, cioè se fermarsi, arrestarsi, se fermare, congelare le proprie vite, questo è il più grande errore, a mio modo di vedere, bisogna continuare, come dire, a vivere nella maniera normale, andare ai concerti, andate nei cinema, andate nei teatri, andate negli stadi, eccetera. Tu immagino a Vanity Fair, adesso non ricordo, ma sicuramente avrai parlato di Ariana Grande, di questo fenomeno, un pop star. Perché colpire lì? Cioè, c'è un significato secondo te, oppure è colpire lì perché... Guarda, è proprio da perdenti, perché vai a colpire una cosa che non è neanche, come dire... Non è neanche peccaminosa per gli standard di qualche religione un po' più oscurantista o qualche interpretazione oscurantista della religione. Certo. Parliamo di una ragazza che canta per, sostanzialmente per ragazzine. Cioè, io penso che la più grande lì dentro avrà avuto 20 anni. A parte i genitori, genitori ovviamente che li accompagnano. Poi sono veramente bambini, ma preadolescenti e anche più piccoli. Quindi che cosa vai a colpire? Niente, proprio vai a colpire l'innocenza, cioè nient'altro. È così. Allora, signori, dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Poi c'è anche Trump che è in Italia, incontrerà il Papa. Beh, è un'esclusiva assoluta di, posso dire, l'editoriale che ha fatto mia figlia Angelica ieri a 11 anni, tra poco, dopo il traffico. A Milan! Io voglio sentire il traffico! Buongiorno da Lorenzo, Padova, 17 gradi e un bel sole. Ciao Alessandro. Ascoltate un poveraccio come me, si prospetta una dittatura vegana. Milan, le previsioni e le temperature di Macerata Feltre non te le mando più. Comunque sappi che in Italia stiamo a 90 gradi. Ora, capisco che c'era anche il partito di Cicciolina dell'amore. Allora io potrei fare il partito di quelli che gli girano i coglioni. Da un lato abbiamo la talassocrazia del dollaro, che è lo stato terrorista, per usare le parole prima impiegate, che dall'89 ad oggi sta bombardando impunemente tramite forme di imperialismo etico e di interventismo umanitario tutti gli stati non allineati cadavericamente con il suo governo monopolare intollerante. Il professor Fusaro, io lo metterei come tortura, no, ma mi ha scritto una persona in maniera molto accalorata dicendo: lei se la prende con il professor Fusaro, è una persona intelligente, sarà intelligentissima, ma in TV, quando va in TV, Luca Dini, la talassocrazia, tu sei riuscito a seguire il ragionamento, io te lo metterei 5 minuti in loop, poi mi fai un riassunto. Non pare neanche tanto intelligente. Vabbè, adesso siamo il professor Fusaro. Dovremmo istituire le perle di Fusaro, caro Lorenzo Nespoli. Ti do il titolo di una nuova rubrica: le perle di Fusaro. Allora, signori, oggi Trump vede il Papa. Mia figlia Angelica, 11 anni, ieri, quando ha visto la notizia, ha commentato: speriamo che non lo picchi. Così l'ha visto, così ha detto. Io ho detto: Angelica, ma no, ma come? Ma perché? Ma sì, papà, Trump è un violento. Ma io vi giuro, non gli ho detto nulla, non sono uno di quelli che speriamo che non lo picchi, speriamo, ma è un genio. Speriamo, no, Angelica, non lo picchia, speriamo. Angelica, stai tranquilla. No. Poi secondo me il papà, no, tira di quelli sganassoni. Non era lui che aveva detto una volta: te do un pugno. Sarebbe una bella lotta. Speriamo che non lo picchi. I bambini, lo vedi, i bambini cosa sanno fare? Sono vabbè. Straordinario. Speriamo che non lo picchi. Vi posso dire di Roma che sì, era ieri è blindata. Roma è blindata. Però adesso, Alino, onestamente, come fa a non essere blindata certo. Una città dove di questi tempi intendo dire proprio quelle cose appena successe. Arriva il presidente degli Stati Uniti. Io ricordo Roma blindata per Clinton, Roma blindata per Gorbaciov. Sì. Cioè, Roma blindata, e perché? Perché sì, insomma. Ah, tra l'altro, Paola, se vedi passare una macchinina un po' lunga, e oggi descritta su tutti i giornali, abbastanza corazzata, scansati, se passa veloce. Vedo bene di fare un passettino da parte con la mia piccola macchinina. Cioè, non fare come al solito che strombazzi, sei spostate! No. Mi hai preso? Perché mi fai l'imitazione così perfetta, Lino? Vabbè, insomma, è così. Tra l'altro, lo sai che Trump andrà al Papa e dirà: you know what, Pope Francis? Solo tu ridi per questa. Ma non è vero, è perfettamente identico. E invece ci sarà, Gianicolo, ingresso del Bambin Gesù, che è piccolissimo, il grande caos ovviamente per la visita di Melania, mm-hmm, e Ivanka che andrà a Sant'Egidio, ma Melania che non gli dà la mano proprio. Ecco, esatto, attenzione, parliamo di questa cosa di geopolitica mondiale. Perché Melania Trump non dà la mano a Donald Trump, che tutte le volte che scende dall'aereo cerca di darle la mano, e Melania con un gesto di stizza, Luca Dini, con un gesto di stizza gliela... Forse vuole dissociarsi dalla talassocrazia. La talassocrazia, sì, esatto. Professor... No, io penso che obiettivamente, sai, anche lui gliene ha fatta qualcuna. Dici? Io più che non dargli la mano, gli fare lo sgambetto, la scaletta. Sulla scaletta, pazienza. Te lo vedi l'ingresso? No, vabbè, dai, però in due minuti vi devo chiedere questo. Io è da due giorni che mi interrogo sulla questione del partito degli animali. Allora, lo so, tu Paola hai una gatta. No, io proprio amo gli animali. Certo, ma chi non ama gli animali? Ma anch'io amo molta gli animali, gente. Adoro gli molta animali. Molta gente non li ama. No, vabbè, ma non vorrei fare come l'ascoltatore. Allora, il partito di quelli che gli girano i coglioni si potrebbe fare, perché ce ne sono tanti. Facciamo il partito Monica Bellucci, come ha detto Antonio Pennacchi, perché piace a tanti italiani. Non so, Luca, questo partito degli animali, tu... Diciamo che tutti i partiti dovrebbero essere i partiti degli animali. Se un partito si chiama Partito degli Animali, è solo una furbata. È una furbata. Beh, però questa è una discussione che si è fatta anche quando c'erano i Verdi. Perché dovrebbe esserci un partito dei Verdi? La tutela della natura? A parte che ci vorrebbe coerenza, perché non è che puoi scoprire gli animali a un certo punto della tua vita. Ieri qui c'era un pescatore che si è infuriato urlando sostanzialmente: cosa ci insegna la brambilla, che è una delle... Io giuro, ne sapevo poco, mi ha spiegato, secondo lui è una delle maggiori importatrici di pesce surgelato dai paesi del sud Mediterraneo, che affamano sostanzialmente la piccola pesca di posti come questo. Quindi lui diceva, insomma, la coerenza non la vedo. La coerenza, capito, elementi per un'inchiesta, cioè un'inchiesta giornalistica questa. No, io l'unica cosa vedo, vuol dire, io adoro gli animali, e tra l'altro detesto chi dice che chi ama gli animali non ama le persone, perché non è vero, cioè chi non ama gli animali tendenzialmente non ama neanche le persone. Però è vero che c'è un po' di... bisogna anche cominciare a capire che anche una vongola è un animale, non è che... Sì, questo è vero. Cara Paola, tu accarezzi le vongole? Spenderesti mai nelle fusa di una vongola? No, mi ricordo per un lontanissimo lavoro fatto in Venezuela, era Rai International, quando ci fu il terremoto di Assisi. Sì. Che colpì Assisi, c'era una grandissima comunità umbro-marchigiana, andando lì e facendo dei giri eccetera eccetera, chiaramente era un Natale caldissimo, ho salvato la vita di un polipo. Di un polipo? L'avevano visto in acqua, questo stasera con le patate, ho detto questo stasera con le patate, no. Oh, avete capito, la salvezza del polpo, grazie a Paola Saluzzi. Va bene, io mi devo fermare qui, non ho avuto tempo, ma insomma, Vanity Fair in edicola, trovate una straordinaria Selena Gomez in copertina, signori. Io non è che la conosca benissimo, ma insomma, una cena volentieri con Selena, se è possibile. Grazie, in settimana sono libero. Vi saluto e vi ringrazio, Luca Dini e Paola Saluzzi, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki skei? 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, ricordate che siamo anche in diretta video, saluto tutti gli amici che ci seguono anche sul sito radio24.it, sulla nostra pagina Facebook di Radio 24. Allora, è il momento della rassegna stampa, le 7:19 minuti, quasi 20 minuti ormai. Ovviamente rassegna stampa dedicata soprattutto al terribile attacco a Manchester con l'attentato rivendicato dall'ISIS al concerto di Ariana Grande. Andiamo. È mercoledì 24 maggio, le aperture, a parte il Sole 24 Ore che sceglie le nuove pagelle fiscali per 3,4 milioni di partite IVA come titolo principale, ma a fianco c'è anche un'intervista al responsabile della NATO, Stoltenberg, che dice la NATO in prima linea nella lotta al terrorismo. Tutti gli altri quotidiani scelgono l'attentato di Manchester con questo taglio, il fatto che siano state colpite delle e spezzate delle giovani vite. La strage delle ragazzine, così apre il Corriere della Sera, mentre Repubblica la strage dei ragazzini. La strage dei bambini è il titolo del Giorno, la strage delle ragazze è il titolo del Messaggero. Per la Stampa, ISIS, attacco al nostro futuro. La Verità, gli islamici che ridono per la strage dei bambini. Il Fatto Quotidiano, la strage delle bambine crociate e l'ennesimo jihadista noto ai servizi. Il Giornale, ci uccidono i figli. Libero, predicano integrazione, raccolgono bimbi morti. Il Manifesto, l'età del terrore, e Avvenire, la strage degli innocenti. Come vedete, i titoli sono tutti declinati e girano e virano attorno a questo argomento. In un concerto di una pop star americana adorata dalle ragazzine e dai ragazzini, ovviamente colpire era inevitabile che portasse alla morte di giovani ragazzini, ragazzine, in alcuni casi bambine. La vittima più accertata, una delle vittime accertate più giovane, aveva 8 anni, Safi Rose. La cronaca, tutti i giornali raccontano con gli inviati, cercano di descrivere questo orrore. Marco Imarisio, a pagina 2 del Corriere della Sera, racconta nel vicolo accanto all'Holiday Inn Express i 5 bidoni verdi che servono a tenere libero il posto dove parcheggiano i fornitori dell'hotel sono pieni di tovaglioli e fazzoletti di carta intrisi di sangue. Dal fondo di quello più lontano dall'ingresso, l'unico chiuso da un coperchio, spuntano una camicetta rosa e un paio di leggings lacerati, una scarpa sinistra Adidas Stan Smith decorata con brillantini, 2 telefonini Samsung spenti, alcuni poster accartocciati con la firma riprodotta di Ariana Grande, World Tour 2017. Gli inglesi sono bravissimi a far sparire le tracce, a predicare il business as usual come manifestazione più immediata della resilienza di un popolo. Ma questa volta c'è qualcosa che rimane anche il giorno dopo, e non solo perché la Premier Theresa May appare a sera in TV per dire che un altro attacco potrebbe essere imminente. Le garze usate, gli involucri dei kit di primo soccorso gettati ai piedi dell'edificio abbandonato che costeggia il vicolo sono una leggera sbavatura nella consueta opera di rimozione, forse il segno della sorpresa davanti al superamento della linea di confine, all'indicibile che infine è avvenuto anche qui. Le testimonianze, ovviamente, un medico che dice: non avrei mai pensato di sentirmi sollevato per non aver avuto bambini, uno dei medici che interviene a soccorrere appunto i bambini, alcuni morti. E poi tutti i giornali, oltre la cronaca, hanno il profilo di quello che è stato identificato come l'attentatore. Salman Abedi, attentatore suicida, dunque kamikaze, racconta Lorenzo Cremonesi a pagina 5 del Corriere della Sera. Un tipo strano, Salman Abedi, abbastanza solitario, poco visibile, tranne negli ultimi tempi che era più spesso con amici e rientrava tardi la sera. Così dicono i vicini di casa. Curioso, vero? Quante volte ormai le figure degli attentatori jihadisti che seminano terrore e morte nelle città europee ci sono inizialmente raccontate come personaggi isolati, quasi ai margini, perfino gentili, riservati. Salvo poi scoprire che solitari non lo erano affatto, anzi godevano di una rete di aiuti o omertà ben più ampie di quanto credessimo. Ieri sera verso le 20 una ragazzina che abita nella villetta a 2 piani di mattoni rossi col giardino ben curato di fronte e le aiuole tagliate di fresco ha inforcato la bici e c'è corsa dietro per sussurrare una frase veloce: non credete a quello che dicono qui i genitori e i vicini. In verità Salman Abedi aveva un mucchio di amici nel quartiere. E qui dove c'è la porta marrone risiedono i suoi cugini, libici come lui. Ora sono chiusi in casa e non vogliono dire nulla. E allora Lorenzo Cremonesi va a bussare, spalanca improvvisamente l'uscio una persona, libico, parente di Abedi, chiediamo a bruciapelo. Lui fa un passo indietro, sorpreso, e risponde: no, siamo afghani, ma risponde con un accento arabo e chiude violento la porta. Fine dell'inchiesta. Ma molto indicativo delle difficoltà che incontra ora la polizia inglese per investigare l'identità del terrorista, i suoi contatti, il percorso che l'ha condotto a massacrare almeno 22 persone, ferirne gravi, gravi decine di altre, nel cuore della città dove era nato, e questo è importante dirlo, nato nel 94, nato e cresciuto a Manchester. Con la bandiera libica in giardino, racconta anche Repubblica Marco Mensurati a pagina 6, così Salman passò all'ISIS. E poi c'è la solita risposta della blindatura. Blindiamo, come se fosse possibile blindare tutti i luoghi, proteggere ogni aggregazione di persone, ogni concerto, ogni cinema, ogni palazzetto, ogni stadio. Ci vuole forse un servizio di intelligence preventivo. Per esempio, tutti raccontano sui giornali dell'ennesimo fallimento dell'intelligence. Attacco prevedibile. Gli 007 britannici hanno lavorato male. Parla, intervistato da Lorenzo Bianchi, il generale Luciano Piacentini, già comandante delle forze speciali del Colmoskin e alto funzionario del controspionaggio estero. Parla con Il Giorno, a pagina 3. Se ne erano già visti 2 mesi prima, con l'irruzione del SUV sul ponte davanti al Parlamento di Westminster che fece 3 vittime di buchi vistosi. Il fuoristrada è arrivato e l'uomo al volante ha fatto quello che ha voluto. Ecco, ma in concreto, generale, cosa si poteva fare all'Arena Stadium di Manchester? La gente che arriva la dispone a settore e dentro ognuno collochi gli addetti alla vigilanza. Poi si piazzano metal detector agli accessi. Certo, alla messa funebre per il pontefice Karol Wojtyła furono schierati anche alcuni tiratori scelti, non visibili, e cani antiesplosivo. È chiaro, capite che vuol dire vivere in una società iperblindata. Ma d'altronde cosa possiamo fare? Possiamo intercettare tutti prima che colpiscano? Certo, questo caso è un caso di una persona che era nota all'intelligence britannica e che evidentemente sapeva di doverlo tenere sotto controllo. Tra l'altro, su questa tematica è interessante leggere ciò che Giordano Stabile scrive sulla Stampa, pagina 8. Attenzione, perché fa parte proprio di una strategia, della strategia del califfato, l'apparente ritirata nel deserto che anticipa la trincea Europa. Racconta Giordano Stabile, le città dove l'ISIS era più presente, Raqqa in Siria, Mosul in Iraq, si sono scoperte sempre più sfollate. Cioè pochi militanti, pochi irriducibili, un pugno di combattenti che resiste oltre ogni limite, previsione della capitale dello Stato Islamico, ridotto in macerie. Ma il grosso delle forze, le risorse meno sostituibili, compresi tecnici, ingegneri, addetti ai programmi militari, sono stati evacuati in zone remote, inaccessibili, così da poter contare anche sulle protezioni di tribù locali. È il piano B del califfato, che ha fatto le prove generali in Libia, a Sirte, le ha perfezionate nel Sinai, le sta ripetendo a Mosul e presto anche a Raqqa. Per cui attenzione, racconta Giordano Stabile, è vero, si dirà abbiamo riconquistato Raqqa nei confronti dell'ISIS, abbiamo riconquistato Mosul, ma attenzione perché potrebbe essere la strategia dell'ISIS di ormai abbandonare città che comunque prima o poi avrebbero perso, per, come dire, rintanarsi e per aprire il fronte che è già stato aperto in realtà con questi cani sciolti che colpiscono in Europa. E c'è tanto da leggere, ovviamente anche qui le foto in questi casi colpiscono moltissimo, soprattutto le foto dei bambini vittime. Abbandoniamo per un attimo questo tema, lo affronteremo ovviamente alle 8:15. Arriviamo in Italia, dico prima della pubblicità solo l'articolo che mi fa pinzare della giornata. L'ho dovuto rileggere 5 volte, in prima pagina della Verità, non ci credevo, invece è confermato dai responsabili della misericordia di Isola Capo Rizzuto, quella che gestisce il CARA di Isola Capo Rizzuto, il più grande d'Europa, il centro rifugiati, che è finito di recente, no? in uno scandalo accusati di essere gestiti da 'Ndrangheta, no? Sapete la vicenda, poi andrà tutto provato, ma comunque sentite qui. Schettino al timone delle navi dei profughi. Io ho letto, no, cosa vuol dire questa notizia? Questo è il titolo di pagina 11. Alessia Pedrielli sulla Verità racconta che nei piani dei responsabili della Misericordia di Isola Capo Rizzuto c'era questo: allestire una nave per soccorrere i migranti, come fanno molte onlus, come stanno facendo nel mare, sapete le polemiche di cui ci siamo affrontati, per aiutare i migranti, portarli nel centro di accoglienza e affidare questa nave a Schettino. Lo avrebbe fatto gratis, lui, per riscattare anche la sua immagine pubblica. E racconta Alessia Pedrielli, il piano c'era, addirittura La Verità contatta Del Bianco, uno dei due responsabili della Misericordia, dice: sì, è vero, l'idea non fu di Sacco, cioè dell'altro responsabile, ma mia. Quell'estate fui colpito dall'ennesima tragedia avvenuta in mare, erano morti dei bambini. Possibile che non possiamo mettere in atto un soccorso in mare? Allora ha pensato. E l'idea era questa. E da lì poi invece lasciammo perdere. Ma l'idea è di l'ipotesi era quella di affidare il comando dell'imbarcazione a Francesco Schettino, che avrebbe lavorato gratis per la Misericordia, avrebbe avuto così la possibilità di riscattarsi e avrebbe anche, come dire, messo in atto un'operazione di marketing per la Misericordia di Isola Capo Rizzuto non indifferente. Ebbene sì, più che mani sul volante, mani sul timone. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan Fujisusa Konnichiwa Dongija, dialetto sudcoreano. Va bene, allora cari ascoltatori, meglio i dialetti nostrani, se possibile, al 349-238-6666, un po' più controllabili, ecco, più che altro, mandateli via WhatsApp in audio a noi. Allora, se veniamo alle cose italiane, sui giornali tiene ancora banco la questione della RAI. Il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, è sulla graticola, si parla di dimissioni dopo che è stato bocciato il suo piano per revisione delle news da parte del consiglio di amministrazione della RAI. E certo, si parla di un incontro con il ministro dell'economia Padoan. Ieri però Padoan se l'è cavata con una battuta: devo consultare l'agenda, non ho in programma nessun incontro con Campo Dall'Orto, che è un modo per Padoan, racconta il giornale, un po' per smarcarsi da questa patata bollente. Il direttore generale della RAI e le dimissioni, prima attendo Padoan, questo è il titolo di pagina 18 del Corriere della Sera. Campo Dall'Orto esporrà tutte le complessità, nessuna obiezione se Padoan mi chiederà un passo indietro. A chi gli è vicino, racconta il Corriere, Campo Dall'Orto dice: io vado avanti col lavoro e non mi dimetto prima dell'incontro col ministro dell'economia Padoan. Certo, io non mi presenterò dimissionario. Ascolterò ciò che mi dirà, se mi suggerirà di fare un passo indietro non porrò obiezioni. Questo nell'articolo di Paolo Conti. C'è ovviamente il classico retroscena, perché la vicenda è eminentemente politica, e raccontano Tommaso Ciriaco e Roberto Mania a pagina 16 di Repubblica. L'assedio ad Antonio Campo Dall'Orto ormai è soffocante da parte dei renziani. In privato sentite cosa dice Renzi, ironizzando: è stato un mio errore, ma l'ho scelto in base al curriculum. Gli avevo detto di avere, gli avevo dato carta bianca per cambiare l'azienda, al massimo è riuscito a lanciare Carta Bianca, che è il titolo di Bianca, di un programma di Bianca Berlinguer. Questa è l'ironia di Renzi, altro che carta bianca per lanciare l'azienda, al massimo ha lanciato un programma col titolo Carta Bianca. Già domani varcherà la soglia del Ministero dell'Economia, Campo Dall'Orto scrive Repubblica, e consegnerà nelle mani di Padoan le dimissioni. Ma non basta. In queste ore l'ala dura del renzismo prepara un'altra mossa clamorosa: il reset, dunque l'azzeramento dell'intero consiglio di amministrazione della RAI. Racconta Repubblica: formalmente il governo si tiene fuori da questo braccio di ferro, né Gentiloni né Padoan si opporranno però a un passo indietro di Campo Dall'Orto. E però la Seconda Repubblica, l'azzeramento del CA della RAI è la mossa a cui puntano i renziani più duri, l'idea dei renziani è azzerare il CDA. Insomma, la vicenda politica legata alla RAI è assolutamente in primo piano sui quotidiani. Invece io voglio concentrarmi su questa notizia che proviene dal mondo del lavoro, che il Manifesto ha fatto emergere qualche tempo fa con un'inchiesta, poi dopo uscita anche rilanciata da altri giornali. È la vicenda degli scontrinisti della Biblioteca Nazionale di Roma. Allora, non sorridete, scontrinisti, perché sono formalmente, come racconta Roberto Ciccarelli a pagina 10 del Manifesto, sono formalmente volontari. Lavorano alcuni però da anni e sono pagati con un rimborso spese che arriva a 400 euro mensile previa consegna di scontrini di valore equivalente. Da qui gli scontrinisti. Sono forme, lo dico ovviamente con amaro sarcasmo, forme moderne di rapporti di lavoro. Siamo arrivati a questi, gli scontrinisti, persone che da anni hanno questo tipo di rapporto, ora che hanno denunciato questa vergogna dal loro punto di vista di essere considerati scontrinisti, cioè rimborsati previa consegna di scontrini di valore equivalente, sono stati anche cacciati. Un SMS del presidente dell'associazione Avaca, il sindacalista Gaetano Rastelli, ha comunicato lunedì sera ai 22 scontrinisti che non lavoreranno più alla Biblioteca Nazionale di Roma. Ovviamente scontrinisti è tra virgolette, perché c'è, non è che c'è questa terminologia precisa nel mercato del lavoro. Il loro volontariato, anche questo tra virgolette, in realtà un lavoro con tanto di ferie e turni, pagato con un rimborso spese da 400 euro mensile previa consegna di scontrini di valore equivalente, è stato interrotto a seguito della sospensione della convenzione con Avaca. La decisione è stata presa dal direttore generale della biblioteca più grande del paese, la stessa che ha usato queste persone per coprire buchi lasciati dal blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. E ora i lavoratori dicono: da oggi non svolgeremo più le nostre mansioni, non riceveremo quel magro rimborso pesato a scontrini, né una forma di indennità di disoccupazione, nonostante un'anzianità della biblioteca, alcuni di 6, 10, a volte 17 anni. La modernità. Sempre a proposito di lavoro, o meglio di lavoro, rapporti, aziende, c'è una storia su Libero in prima pagina, la racconta Alessandro Gonzato, di un imprenditore che, esasperato, ha deciso di fare causa a un giudice lumaca, così lo definisce lui. Processo lento, fa causa al giudice. La storia è quella di tante imprese italiane. Un imprenditore che dice deve avere 1.700.000 euro di lavori svolti e mai pagati dalla pubblica amministrazione, in un caso nel comune di Godega Sant'Urbano, dove l'imprenditore ha lavorato a una caserma dei carabinieri, dovrebbe incassare 1.100.000 euro. Ha detto: nel 2015 ero anche venuto incontro all'amministrazione dicendo datemi almeno 350.000 euro così da pagare gli artigiani, gli operai, così da andare avanti. Ho fatto poi causa, eccetera. Ma poi è cambiato il giudice, il primo giudice si era dichiarato favorevole a questa transazione, poi è stato sostituito da un collega per una questione di competenze. Da quel momento le cose si sono complicate. Il nuovo giudice ha stravolto tutto, ha affermato che non avevo titoli per richiedere i soldi, ha rimandato la discussione nel 2018. Insomma, classica situazione, almeno a giudicare a questo imprenditore, di chiusura di un'azienda, di fallimento per troppi crediti che deve ottenere. Ho dovuto vendere gli immobili per non chiudere l'azienda, ha crediti per quasi 2 milioni con gli enti pubblici, ha fatto causa ma le cause sono ferme. Ora dice: denuncio il giudice che secondo me sta tenendo tutto bloccato. È la storia di questo imprenditore Roberto Camerin, 54 anni, titolare dell'omonima azienda edilizia con sede a Padova, raccontata in prima pagina da Libero. Caro Mauro Meazza, vedo tanti movimenti dalle tue parti nerazzurre. Bei movimenti, eh? Ma caro Alessandro Milan, come vedi, scudetto all'Inter l'anno prossimo, è già fatto. Cioè, cominciamo con la Zizou a guffare che non è neanche finito il campionato precedente, che mi sembra ci portiamo il massimo. Vabbè, però in compenso voi potrete sicuramente, anzi vi assicurerete sicuramente l'Europa League, quindi a questo punto diciamo che le squadre milanesi torneranno a trionfare a Pechino, nel calcio europeo. Dai, piuttosto che perdere tempo con queste pinzillacchere, caro, ti sei ricordato di prendere con il Sole 24 Ore oggi tutto pratiche online? Come no? Sì, vabbè. Allora, oggi l'Instant Dai, sono le 7:44 minuti, c'è tutta la giornata davanti. Oggi l'Instant Book dedicato a tutto quello che puoi fare in via digitale, in formato digitale, specialmente con gli uffici pubblici. Sai cos'è la SPID? Ecco. Sai cos'è la PEC? Sai cos'è Pago PA o la SCIA, la CILA? Ecco, sono tutte cose che puoi utilizzare, vengono spiegate in questo volumetto oggi con il Sole 24 Ore e servono a velocizzare per magari, appunto, sei partito raccontando la vicenda triste di un imprenditore che non riesce ad avere un solerte dialogo, un tempestivo dialogo con il tribunale. Qui parliamo invece di questioni più ordinarie, come l'ottenimento di documenti, la presentazione di documenti. Vabbè, oggi con il Sole 24 Ore non venire a cercarmelo al bar, per piacere. Sai che è una cosa che mi innervosisce, il caffè te lo pago lo stesso. Oh, ma c'è la manovrina! Sei preparato sulla manovrina? Ho studiato tutto. Oh, hai visto che già è il nostro titolo più importante, perché arrivano gli ISA. Oh. Cosa sono gli ISA? Non lo sai, non hai studiato. Va bene. Sono gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Mi mancava proprio la I. Vabbè. Allora, questi indici, devi sapere, vanno a sostituire, sono i sostituti degli studi di settore, ma saranno completamente diversi. Come saranno? Vabbè, leggi oggi in pagina 3 del Sole 24 Ore, è una delle novità tra le più importanti che appunto si preparano con la conversione in legge della manovrina. Ma oggi è giornatona di circolari, caro Alessandro Milan. Ti voglio proprio richiamare su questo punto, perché c'è una circolare, diciamo una lettera circolare del ministro Calenda, che segnala come se un'azienda delocalizza perderà il diritto alle agevolazioni ottenute. Lo trovi a pagina 2. Ma proseguendo poi nello sfoglio, sempre scrupolosamente per imprese e territori, mentre per finanze e mercati leggerai avidamente, e arrivando alla sezione di norme tributi che tu leggerai come sempre religiosamente, allora lì apprenderai. Ci sono ragazzi, altri due circolari importanti, l'una dell'Agenzia delle Entrate, la numero 17, dedicata agli impatriati. Gli impatriati, cioè coloro che decidono di ritornare nel nostro paese o prendere residenza fiscale, come accade per la cosiddetta flat tax per i paperoni, sì, i nuovi contribuenti molto abbienti. E poi c'è anche la circolare 88 dell'INPS, sì. Sei preparato sulla circolare 88? Guarda. No, va bene, però invece è la circolare che finalmente fa partire le domande per il bonus degli asili nido. Tutti i particolari su norme e tributi, dove troverai tra l'altro anche un'utile guida per l'ape social, che però non ti riguarda perché sei troppo giovane, beato te. Dopo tutte queste circolari, che cosa ti posso dire se non... Circolare! No, traffico! Alessandro Milan, usci chignacchin da bottiglie dell'informazione. Molto bene, allora alle 7:50 minuti, intanto per la politica, nel senso che coinvolge un nuovo politico ma non riguarda la politica, ma vicende personali, Silvio Berlusconi, Secondo Repubblica, racconta Emilio Randaccio a pagina 19, i suoi avvocati hanno fatto una richiesta ufficiale per sospendere l'assegno da 1,4 milioni di euro al mese per Veronica Lario, l'ex moglie. Berlusconi per il divorzio spera nella sentenza Grilli, no? La sentenza di separazione tra l'ex ministro Grilli e Lisa Lovenstein, per cui si è rivisto un po' tutto, no? Non vale più non vale più anche per Berlusconi, ma per gli avvocati di Berlusconi basta soldi a Veronica. Questa è l'anticipazione che c'è su Repubblica. Oh, voglio poi leggervi, perché c'è quella che viene definita alcuni anche un po' una psicosi tra sicuramente ragazzini e ragazzini, sicuramente anche per i genitori, quella di cui si sono occupate anche le Iene con qualche servizio, il cosiddetto blue whale. No, ne avete sentito parlare, la balena blu, questa sorta di gioco del suicidio, chiamiamolo così, perché in definitiva questo è, cioè partito dalla Russia, sempre che sia vero, perché c'è una psicosi generale, ma casi presunti, ma non accertati, di ragazzini, ragazzine che si affidano a dei tutor sui social e devono compiere 50 prove sempre più terribili. L'ultima prova è quella di togliersi la vita. Allora, pare che in Russia questo abbia portato alla morte di diversi adolescenti. In Italia si indaga per ora per un caso a Livorno. Il 7 marzo scorso un ragazzino di 15 anni si è tolto la vita gettandosi nel vuoto e si sta ipotizzando che fosse stato intrappolato in questa rete del blue whale, no? Le balene blu. Il Giorno dedica due pagine con Massimo Stefanini al gioco del suicidio. Questo è il titolo: salvate due ragazzine, sedicenni, toscane, cercavano un tutor per iniziare. Dopodiché non si capisce se questo sia un disagio, se sia un'espressione di disperazione, se nella rete c'è un po' di tutto, tanto che Fiorenza Sarzanini intervista oggi sul Corriere della Sera, ve lo segnalo, il direttore della Polizia Postale, Nunzia Ciardi. Blue whale, un rischio per i giovani, così avvertiamo i loro genitori. Per la verità Fiorenza Sarzanini giustamente parte dalla prima domanda di: ci può spiegare la realtà? Perché molti sono convinti che blue whale sia solo un'invenzione. Noi stiamo indagando ormai da tempo. Posso dire che si tratta di un fenomeno cresciuto a dismisura. Esiste certamente, ma stiamo cercando di scoprire in quali dimensioni e soprattutto con quali sistemi. Su circa 40 denunce ricevute abbiamo diversi casi da approfondire. C'è il tentato suicidio di una ragazza a Pescara, abbiamo scoperto diverse conversazioni tra ragazze che lasciano presumere una dinamica identica a quella scoperta in Russia, anche se non abbiamo ancora riscontro che siano guidate da un tutor, cosiddetto tutor. E cosa dicevano? Beh, facevano esplicito riferimento al blue whale. Per questo abbiamo contattato subito i genitori. Certo, poi spiega come funziona, i rischi per i ragazzi, i consigli anche per i genitori, quindi è molto consigliabile da parte mia leggere questa intervista sul Corriere della Sera alla direttore della Polizia Postale Nunzia Ciardi. Quanto ci sia di vero, quanto ci sia di psicosi che in qualche modo si sta autoalimentando, questo non è dato a sapere, però certo anche i giornali ne parlano e la questione c'è. Oh, poi cito da Libero, prima pagina, l'articolo di Ilaria Pedrali. Non lo so, non ho un giudizio, cioè nel senso ho un giudizio, ma poi mi si accusa di essere contro gli animali quando io li adoro gli animali. Ma non lo so, al comune di Trieste hanno deciso di aiutare chi è in difficoltà, cioè chi magari ha perso il lavoro, chi non ha soldi, eccetera, e dici, bella iniziativa, dando crocchette gratis se hanno degli animali, dando loro le visite veterinarie gratis. Ma porcaccia miseria, ma abbiamo dato soldi a tutti gli indigenti in Italia, esseri umani? Prima di occuparci giustamente delle loro bestiole amiche, abbiamo soddisfatto tutti i desideri di tutte le persone indigenti in difficoltà? Ho dei dubbi, però pensiamo di dare le crocchette agli animali delle persone in difficoltà. Va bene, siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. È un profluvio oggi sulla visita di Trump, di Melania in Italia. Per esempio, Maria Egizia Fiaschetti sul Corriere della Sera ci dice che Melania ha preferito la moda italiana, Ivanka ha preferito la mozzarella, Trump ha cenato a pizza e poi indossavano capi di moda italiano, occhiali scuri, Dolce & Gabbana, e così via. Ma chi se ne frega!